Già l'estate ai 300 scalini, è partita la rassegna culturale sulle colline bolognesi curata dal Teatro dei Mignoli, è giunta la sesta edizione, la co-curatrice artistica della rassegna è qua in diretta telefonica con noi e do il buongiorno, ben ritrovata Deborah Vinci, buongiorno. Buongiorno. Deborah. No, finalmente ci risentiamo. Buongiorno, ben ritrovata a te. Come stai Deborah? Molto bene, molto bene. Sei contenta? Sei soddisfatta? Sono contenta e soddisfatta. Ieri abbiamo aperto le porte ufficialmente dell'estate, che avevamo già aperto per la primavera in contesti mattutini di domenica, e da ieri siamo ufficialmente nel pieno dell'estate ai 300 scalini. Bene. La festa estate, incontri fantastici. Parco San Pellegrino, ricordiamo, ai piedi si vede San Luca, quindi siamo in una zona particolarmente suggestiva della nostra realtà collinare o piecollinare. Dal 17 giugno al 12 settembre ci terrà compagnia per tutta l'estate. La co-curatela della rassegna è con Mirko Alboresi, con noi Deborah Vinci e il filo conduttore, appunto, l'incontro. Esattamente, e l'incontro, insomma, cominciando qualche mese fa, oramai anche diversi mesi fa, ad immaginare questa nuova estate che, come quella dell'anno scorso, era sulla scia pandemica, una delle nostre parole chiave, ma la nostra parola chiave principale nell'immaginarla era appunto quella dell'incontro. E abbiamo trovato nei momenti in cui si cerca l'ispirazione, io apro sempre il dizionario etimologico e la definizione di incontro mi ha molto ispirata, infatti ci ha molto ispirati tutti, che è incontrare, cioè abbattersi camminando con chi che sia ed anche occorrere, succedere. Allora questo abbattersi camminando con chi che sia, che rimanda già a una narrazione, che sembra l'incipit di un racconto, di un'apertura, e rimanda anche al camminare, cosa per noi fondamentale, innanzitutto perché da anni Teatro dei Mignoli produce dei trekking teatrali sia urbani dentro la città che negli ultimi anni specialmente sui colli e ripercorrendo i sentieri del CAI. Ai 300 scalini è un luogo dove si arriva a piedi, non c'è, per fortuna, anzi per fortuna non ci sono parcheggi per le macchine, quindi tutti quanti e tutte quante sono invitati e invitate a salire a piedi da Villa Spada lungo il percorso 914 del CAI per raggiungere le nostre scalette di ingresso. E quindi sì, un incontro, un occorrere, un succedere, e un'altra parola chiave per noi era appunto l'ecosistema, un ecosistema inteso come anche come riposizionamento, no, dell'essere umano, e quindi un incontro tra esseri umani, un incontro anche interspecie con tutta la popolazione vegetale, che è fondamentale per noi essendo un luogo di agricoltura, di giardinaggio e di cultura, nonché la fauna locale, che comunque dalla più piccola come gli insetti e gli insetti impollinatori alla più grande come qualche cinghiale che ogni tanto si vede passare, sono fondamentali per il posto. L'incontro di teatro, musica, trekking, yoga, poesia, arti varie, le giornate da giovedì alla domenica terranno compagnia per gli spettatori che si trasformano in protagonisti in queste passeggiate nell'estate ai 300 scalini curata dal Teatro dei Mignoli, iniziata già da ieri, anche se è stato più un opening perché abbiamo un appuntamento ufficiale anche questa sera. Esattamente, okay. Questa sera, ho detto bene, e domani meno sera male. Hai detto benissimo. Questa sera e domani sera abbiamo appunto l'apertura degli incontri culturali ufficialmente con un lavoro di Gabriella Salvaterra intitolato Tutto passa, tutto resta, un lavoro teatro di sense specific theater, di teatro sensoriale, innestato in maniera assolutamente specifica nei 300 scalini, e si tratta di un viaggio poetico all'interno della natura, un viaggio molto intimo, perché la Gabriella Salvaterra preferisce chiamare i propri attori degli abitanti del suo contesto, e gli spettatori o le spettatrici sono i viaggiatori o le viaggiatrici, quindi è un viaggio molto interessante che ha concesso anche a noi che abitiamo i 300 scalini di perderci nel nostro stesso spazio. Ci sono ancora dei biglietti disponibili, si entra due spettatori alla volta a ciclo continuo ogni 5 minuti dalle 18 alle 20:30. E la nostra biglietteria, faccio questo inciso, anche quest'anno come lo scorso anno sarà online, quindi i biglietti sono disponibili su Boxer Ticket e il link alla biglietteria si trova negli eventi della nostra pagina Facebook oppure nel blog ai300scalini blogspot.it.